Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Responsabile unico per le liste d'attesa, se ne dovranno dotare entro gennaio le 3 aziende sanitarie della regione, è una delle novità contenute nelle nuove linee guida per il 2024 approvate dalla Giunta Fedriga. Le piante organiche degli enti locali e in particolare la carenza di personale nei piccoli e piccolissimi comuni al centro del confronto in regione, audizione in commissione dell'assessore competente Roberti e dei vertici regionali dell'Associazione dei Comuni. A tricesimo il congresso della CGIL regionale con la presenza del segretario nazionale Landini, Michele Piga, già segretario provinciale di Trieste, proposto al voto dei delegati come nuovo responsabile regionale. 8 anni fa scompariva al Cairo Giulio Regeni, oggi Fiumicello Villa Vicentina, il comune di origine del ricercatore, organizza una serie di iniziative per chiedere verità e tenere alta l'attenzione sul processo che comincerà tra meno di un mese. L'inflazione, l'aumento dei costi energetici, ma anche la difficoltà a reperire personale, le case di riposo stanno soffrendo e anche per gli utenti l'aumento delle rette diventa un problema. 127 aggressioni al personale sanitario nel 2023 solo nel Pordenonese. Le aziende sanitarie corrono ai ripari con sistemi di videosorveglianza come deterrente. Al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone oggi è stato inaugurato un nuovo sistema di sicurezza. Sappada riorganizza l'offerta dello sci, ammodernamento dell'esistente e una nuova cabinovia previsti dall'accordo siglato tra Regione Promoturismo e Comune Sappadino. Buongiorno da Livia Liberatore, Andrea Covre in studio per questa edizione del giornale radio regionale. La giunta regionale ha approvato le nuove linee guida sulla gestione del servizio sanitario per il 2024. Tra le novità la nomina di un responsabile unico per le liste di attesa che ogni azienda sanitaria dovrà nominare per affrontare il problema. Arriva il responsabile unico per le liste d'attesa. Se ne dovrà dotare entro gennaio ciascuna delle 3 aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, oltre al Crodi Aviano e al Burlo Garofalo di Trieste. L'istituzione di questa figura è una delle novità delle linee guida del 2024 per la gestione del servizio sanitario regionale. Il documento, approvato la settimana scorsa con una delibera di giunta, fornisce le indicazioni operative a cui le aziende sanitarie devono adeguarsi. Il responsabile unico potenzierà il controllo centralizzato delle liste d'attesa, uno dei maggiori problemi del sistema sanitario regionale e nazionale, che secondo l'assessore Riccardo Riccardi si può risolvere almeno in parte con una migliore organizzazione. Più risorse economiche e più personale, che tra l'altro non troviamo o troviamo con difficoltà, non ci consentirà di risolvere questo problema. Questo non significa chiudere strutture, significa specializzarle, questo non significa ridurre posti letto, significa probabilmente però ridefinire le loro funzioni. Altro obiettivo prioritario delle nuove linee guida è il potenziamento degli screening oncologici per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto, per i quali, si legge nel documento, è necessario migliorare i livelli di adesione della popolazione. Questo perché circa il 40% di coloro che sono invitati a svolgere controlli gratuiti non rispondono alla chiamata. I tassi più bassi di adesione si registrano nel territorio di Asugi, quindi Trieste e Gorizia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tema del lavoro nei comuni con le carenze nelle piante organiche e la necessità di reperire personale per garantire i servizi al centro dell'audizione organizzata stamattina in Consiglio regionale. In sede di commissione è intervenuto anche l'assessore competente Pierpaolo Roberti. La carenza di organico nella pubblica amministrazione, specialmente nei comuni, ha radici lontane e parte dai vincoli della spending review, ma c'è anche una crisi di reputazione dei dipendenti pubblici. I concorsi dei comuni vanno spesso deserti, oppure a pochi mesi dall'assunzione i dipendenti si presentano e vincono altri concorsi lasciando la posizione sguarnita. Una situazione di cui sono ben consapevoli i consiglieri regionali della quinta commissione che hanno audito il presidente dell'ANCI Favotti, il segretario generale di ANCI Alessandro Fabbro, il coordinatore dei piccoli comuni Franco Lenarduzzi. Proprio Lenarduzzi ha specificato che la carenza dell'organico ha portato così lontano che sono ormai pochissime le piccole amministrazioni che hanno potuto concorrere ai progetti del PNRR, lasciandosi sfuggire un'opportunità storica. Il segretario dell'ANCI Fabbro ha sottolineato che diverse misure sono state prese dalla regione per superare i vincoli della spending review, ma auspica anche una maggiore leva economica. Il presidente dell'ANCI Favot apprezza l'annunciata apertura della scuola della regione per i dipendenti pubblici, ma auspica anche l'uniformità dei processi digitali delle aggregazioni dei comuni. L'assessore Roberti, consapevole che c'è anche un problema demografico, auspica che si facciano concorsi unici ai quali aderiscono i comuni in modo da avere una graduatoria di scorrimento unica, in modo che il candidato che esce di sua spontanea volontà dalla graduatoria non possa ripresentarsi subito dopo ad un altro concorso. Sul trattamento economico, Roberti ha anche ricordato che il divario tra comunali e regionali non c'è, ma anche auspica che i comuni mettano in atto i regolamenti per avviare lo smart working previsto dal contratto. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. È in corso a Tricesimo l'Assemblea Generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia, alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini. Oggi verrà eletto il nuovo segretario regionale del sindacato, successore di Viglian Pezzetta, indicato Michele Piga, attuale segretario provinciale della CGIL di Trieste. È in corso a Tricesimo, con la partecipazione del leader Maurizio Landini, l'assemblea della CGIL per il rinnovo del segretario regionale del Friuli Venezia Giulia. Michele Piga, triestino, classe 74, segretario generale della CGIL Trieste, è il candidato unico a succedere a William Pezzetta. Il segretario uscente è stato eletto per la prima volta l'8 luglio del 2016 e rinnovato dai congressi regionali del novembre del 2018 e del febbraio 2023, vicino alla scadenza del limite statutario degli 8 anni. Un anno fa, in occasione dell'ultimo congresso, Pezzetta si rese disponibile a fare da targhettatore verso una nuova segreteria. Tanti temi trattati nel corso dell'assemblea, come i rapporti con il governo, l'aggravarsi della criticità nel funzionamento del servizio sanitario regionale a causa delle liste di attesa e della carenza di medici di base, i segnali che arrivano dal mondo del lavoro regionale, che non sono soltanto segnali di tenuta. Nel 2023 c'è stato infatti un sensibile aumento del ricorso alla cassa integrazione, aumentato del 26% rispetto al 2022, con un'impennata in particolare negli ultimi mesi, soprattutto nell'utilizzo dei contratti di solidarietà, quasi triplicati. Il settore che assorbe più ore è quello metalmeccanico, ma con un ricorso stabile rispetto al 2022, mentre si è registrato un forte incremento degli ammortizzatori nel legno arredo, nel settore dell'industria cartaria e dell'editoria, nel comparto del vetro e della lavorazione minerari, richieste di ammortizzatori in crescita negli ultimi mesi del 2023 anche in edilizia. Tricesimo, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è tenuto stamattina un incontro in videocollegamento tra la Regione e i vertici di Electrolux Italia per fare il punto sulle strategie di sviluppo dell'azienda dopo la conferma dei 181 esuberi nello stabilimento di Porcia. Un incontro interlocutorio, secondo Gianni Piccinin della FIM CISL, che si è deciso di aggiornare al prossimo lunedì in presenza a Pordenone. Il ministro Luca Ciriani si è impegnato a parlare con il ministro delle imprese Urso della convocazione di un tavolo nazionale sul settore dell'elettrodomestico, come ipotizzato dai sindacati. Sono trascorsi 8 anni dal 25 gennaio 2016, il giorno in cui Giulio Regeni è scomparso al Cairo in Egitto. Il comune di Fiumicello Villa Vicentina, in collaborazione col collettivo Giulio Siamo Noi, organizza oggi una serie di iniziative per ricordare il ricercatore. Ce le anticipa il sindaco Alessandro Di Just. Sicuramente 8 anni che la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia Regeni, a Paola, Claudio e René, per continuare questa salita nella richiesta di verità e giustizia per Giulio. Il 25 gennaio è ormai diventata una data, si verifica ormai da appunto questo tempo un'iniziativa che è parole, immagini e musica per Giulio. Ci sono degli ospiti che vengono a relazionare dalla regione e da fuori regione, c'è il coinvolgimento delle scuole, del governo dei giovani, dei sindaci del territorio. Quest'anno abbiamo la partecipazione consueta di Beppe Giulietti come moderatore, sarà presente, annunciato, l'ex presidente della Camera Roberto Fico, avremo anche l'artista Lorenzo Terranere, Giuliano Foschini, Matteo Macoro, Ottavia Piccolo, Marco da Milano in collegamento, Vittorio Trapani. Il 20 febbraio, quindi tra poco, ci sarà la prima udienza del processo. Qual è lo spirito delle iniziative quest'anno? C'è più speranza? Sì, si è aperta questa possibilità finalmente, è un altro e un ulteriore passo avanti. Questo passo avanti probabilmente si deve alla determinazione della famiglia e di chi in questi anni è riuscito a stare accanto e a sottolineare l'importanza che hanno la ricerca della difesa dei diritti umani. Fondamentale che susseguente alla verità ci sia la giustizia. La Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato 1 tonnellata di tabacco lavorato e 4 tonnellate di filtri e cartine pronti per il confezionamento di sigarette. Nel corso dell'operazione nella zona industriale di Aviano è stato anche arrestato un autotrasportatore rumeno. Parte del tabacco si trovava in un camion con targa straniera fermo in un'area di sosta. Altro tabacco lavorato e il materiale per il confezionamento di sigarette è stato poi trovato dai finanzieri in un magazzino apparentemente di smesso, che si trovava in un'area adiacente. L'autotrasportatore è stato arrestato per contrabbando di tabacchi e condotto in carcere a Pordenone. Tutta la merce è stata sequestrata, così come l'autoarticolato utilizzato per il trasporto. Non ha solo invaso la corsia opposta, causando la morte di una persona e ferendone altre 2, una delle quali in modo gravissimo, è aggravato dallo stato di ebbrezza l'omicidio stradale contestato dalla procura di Pordenone al 45enne veneto che ha causato l'incidente frontale e la morte di Dorio Duca, trentenne albanese deceduto nella notte di domenica dopo l'incidente avvenuto sulla Ponte Bana a Ponte Meduna, frazione di Zoppola. A rivelare gli sviluppi delle indagini, l'avviso di accertamenti non ripetibili con il quale il pubblico ministero della procura di Pordenone ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire l'esatta dinamica, le cause e tutte le responsabilità del terribile sinistro. Rubavano le offerte nelle chiese del Pordenonese. 2 uomini di 61 e 71 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Polcenigo. L'indagine è iniziata in novembre, quando il parroco di Budoia aveva segnalato una serie di ammanchi. I 2 uomini di San Daniele del Friuli, incensurati, sono stati bloccati sabato scorso, dopo aver visitato ben 8 chiese per sottrarre banconote e monete precedentemente segnate dai carabinieri. I 2 sono stati arrestati e poi rimessi in libertà su disposizione del PM di turno. Aumento delle rette e difficoltà di reperimento di personale sociosanitario sono le sfide principali di un settore che si sta riprendendo dalle difficoltà economiche causate dalla crisi Covid, quello delle case di riposo. Un tema che abbiamo approfondito questa mattina nella nostra trasmissione TV. Buongiorno Regione. Un settore in riassestamento dopo il Covid che ha colpito durissimo, così come inflazione e aumento dei costi dell'energia. Le case di riposo, più di 190 in regione, la metà delle quali pubbliche, stanno provando a rimettersi in piedi, ma crescono le difficoltà e anche le liste d'attesa, come ha spiegato a Buongiorno Regione Matteo Sabini, consigliere di UNEBA, l'associazione che riunisce quelle di stampo cattolico sociale, circa il 10%, in Friuli Venezia Giulia. I modelli assistenziali si sono modificati su un maggior livello di protezione all'interno di strutture che permane ancora parzialmente con l'utilizzo delle mascherine e poi dopo la pandemia che ha provocato appunto questo grandissimo sconquasso nel sistema è arrivata la crisi energetica per cui il governo dei costi ha cominciato a faticare già i bilanci delle strutture che erano già gravati dalle perdite di esercizio legate alla pandemia. Gli utenti, la cui pensione è rimasta costante, fanno fatica a reggere l'aumento delle rette che però, secondo i gestori, è inevitabile. Una volta erano fisiologici e potevano arrivare fino al 3-4% sulla base appunto degli indici Istat. Dobbiamo recuperare le perdite di esercizio, recuperare i costi dell'inflazione, eccetera, eccetera, in una situazione comunque di aumento dei servizi da offrire agli anziani, che comunque devono mantenere una qualità all'interno di strutture piuttosto elevata. Abbiamo assistito anche a aumenti fino a 5,50 euro al giorno. Altra criticità, reperire operatori qualificati. La ricerca di personale è costante, con il rischio di farsi concorrenza da soli. Stiamo assistendo a un lievissimo recupero della professione infermieristica che comincia a diventare attrattiva all'interno delle strutture. Sta invece scendendo in maniera preoccupante la disponibilità di osso sul territorio, perché questa professione non è più attrattiva come una volta. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei lavori per la nuova autostazione a servizio del trasporto pubblico locale in piazza 4 Novembre a San Daniele del Friuli. L'opera ha un quadro economico previsto di 1.100.000 euro suddiviso in due lotti funzionali ed è stata cofinanziata dalla Regione e da fondi europei e comunali. Durata dei lavori 8 mesi. L'infrastruttura permetterà di parcheggiare la propria auto e utilizzare il bus per una lunga percorrenza e fornirà una serie di vantaggi anche ai turisti. Vediamo il tempo, cielo da nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste e Pordenone 9 gradi, a Gorizia 9 gradi e mezzo, a Udine 10, Forni di Sopra 7 gradi, Piancavallo e Tolmezzo 6 gradi e mezzo, Tarvisio 5 e mezzo, Sappada 4, sul Monte Zoncolan 3 gradi, sul Lussari 1 grado e mezzo, sulla costa a Grado 7 gradi e mezzo, a Lignano 6 e mezzo. Le previsioni dell'ARPA FVG oggi pomeriggio sulla zona montana, specie sui settori al confine con l'Austria, il cielo sarà variabile. Sul resto della regione in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti ad alta quota soffierà vento da moderato a sostenuto da nord-ovest. Domani avremo cielo in genere poco nuvoloso, ad alta quota oltre 2000 metri, ancora vento moderato da nord-ovest. Sulla bassa pianura nelle ore notturne possibili foschie, specie nel pordenonese. Zero termico in ulteriore rialzo oltre i 2400 metri circa in serata, con inversioni nei bassi strati. Grazie a una dotazione finanziaria aggiuntiva di 3,2 milioni di euro da parte della Regione è possibile uno scorrimento di graduatoria del bando del fondo per piccoli progetti dedicati a Go 2025 Gorizia Nova Gorizia Capitali Europee della Cultura. Da domani altri 17 progetti approvati potranno mettersi in moto, aggiungendosi ai 27 già avviati. Molte le proposte culturali, ma anche turismo, enogastronomia e sport sono presenti nelle idee sviluppate in maniera congiunta dai partner italiani e sloveni. Un accordo per la realizzazione di un impianto di cogenerazione nello stabilimento produttivo di San Daniele del Friuli è stato annunciato oggi da AEB Prosciutti ed Era Servizi Energia. L'impianto produrrà energia elettrica e termica sotto forma di acqua calda, coprendo il 72% del fabbisogno dello stabilimento. Grazie al nuovo impianto, AEB Prosciutti eviterà emissioni di anidride carbonica pari a 628 tonnellate l'anno, pari all'assorbimento di CO2 da parte di 68 ettari di bosco. Le aggressioni al personale sanitario sono sempre più frequenti. Nel 2023 solo nel Pordenonese si sono verificati 127 episodi del genere. Per tentare di arginare il fenomeno, le strutture sanitarie stanno adottando sistemi di videosorveglianza, come è successo a Pordenone. Al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone è stato inaugurato un nuovo sistema di videosorveglianza che si aggiunge a un pulsante rosso collegato direttamente alla questura per un pronto intervento in caso di emergenza, operativo da inizio anno. I sistemi di sicurezza illustrati stamani dalla Direzione Generale ASFO, la presenza dell'assessore regionale alla salute Riccardi, vertici di prefettura e forze dell'ordine si sono resi necessari considerate le crescenti aggressioni al personale sanitario. Laura De Santi e primaria del pronto soccorso e medicina d'urgenza. Ci troviamo ad affrontare sempre più spesso delle aggressioni prevalentemente verbali. Comincia a essere una pratica quotidiana che avviene in pronto soccorso. Sicuramente le telecamere ci fanno sentire più tranquilli perché pensiamo siano un deterrente soprattutto all'aggressione verbale e invece per l'aggressione fisica possono rappresentare una sorta di registrazione che poi dopo è importante ai fini dell'indagine. Siamo sicuramente sotto pressione, il pulsante è stato usato una volta recentemente e abbiamo avuto l'arrivo immediato della forza di polizia. Speriamo che la cittadinanza capisca che insomma noi siamo sicuramente in sofferenza, però cerchiamo di dare il massimo. Le immagini acquisite dal circuito restano registrate per 72 ore. Il progetto parte dal pronto soccorso di Pordenone, il più esposto. Qui tra l'altro la carenza di personale è significativa, ma sarà esteso anche a quelli di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e al pronto soccorso pediatrico. Successivamente alle sedi delle guardie mediche nel territorio e si ipotizzano anche telecamere mobili per i sanitari a domicilio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora andiamo a Sappada, dove il comprensorio sciistico si ammoderna e si riorganizza. Oggi è stato firmato un accordo tra Regione, Promoturismo FVG e Comune. Sappada è la regione più operativa nello sviluppo turistico invernale della località carnica. È stato firmato pochi minuti fa nell'aula consiliare del municipio di Sappada un accordo di programma tra l'amministrazione regionale, rappresentata dall'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, Promoturismo FVG con il direttore generale Antonio Bravo e il sindaco Manuel Pillerhofer. Un atto che consentirà l'ammodernamento e l'implementazione delle infrastrutture poste al servizio dell'area sciabile Sappada 2000, la stabilizzazione del parco giochi Nevelandia e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree sciabili attrezzate rispetto agli interventi. In sostanza, la Regione, tramite Promoturismo FVG, investirà quasi 15 milioni di euro per una nuova cabinovia tra l'area Pian dei Nidi e l'area 2000 a Monte, sostituendo la vecchia seggiovia biposto Sappada Miravalle. L'obiettivo finale è quello di collegare le tre aree sciabili di Sappada in un unico carosello e di sostituire gradatamente gli attuali impianti sciistici con quelli di nuova generazione. Previsto pure il recupero del demanio sciabile già esistente in località Olbe Hobolt con due nuove seggiovie. Un accordo che prevede anche l'acquisizione, previa sdemanializzazione, del parcheggio sotterraneo Kratten da parte di Promoturismo FVG. 120 posti auto nelle vicinanze della stazione di partenza dell'attuale seggiovia Miravalle, realizzati negli anni 90 e mai entrati in funzione. Definita l'attività di Nevelandia, che fino alla stagione 2024-2025 resterà in capo a Promoturismo FVG, in attesa che si creino le successive condizioni per una gestione privata del compendio. Avviata pure la posizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'area di Nevelandia, attualmente frazionata in decine di proprietà private, alle quali viene corrisposto un canone di occupazione. Ora saranno tutte acquisite da Promoturismo FVG mediante l'accordo di programma. Sappada, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 12.51 e 30 secondi proseguiamo con gli appuntamenti. Ambra Angiolini porta in scena Oliva Denaro, spettacolo tratto dal romanzo di Viola Ardone, al Teatro Orazio Bobbio di Trieste. La storia è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore. Il romanzo prende spunto da quella vicenda e la ricostruisce. Oliva Denaro diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta di fronte a un uomo violento. Da oggi a sabato alle 20.30 e domenica alle 16.30. Lo spettacolo Il Memorioso, breve guida alla memoria del bene, sarà in scena al Teatro Verdi di Pordenone, un monologo che racconta le storie dei giusti, quegli uomini e quelle donne che con grande rischio personale hanno difeso la vita e la dignità umana durante i genocidi, i totalitarismi, le crisi umanitarie del presente e del passato. Al centro del monologo la storia di Moshe Beiski, per anni presidente della Commissione dei Giusti al memoriale Yad Vashem a Gerusalemme. Appuntamento alle 20.30. Il monologo Canti dalla Casa dei Viventi, un monologo accompagnato dalla musica, sarà presentato all'Auditorium di San Vito al Tagliamento. L'opera unisce i testi dello scrittore Angelo Floramo alle note del compositore Carlo Galante. Al centro c'è il tema del confine, lo spettacolo è ispirato infatti al cimitero ebraico trasfrontaliero di Val di Rose, alle 20.30. Ad Aviano si terrà un incontro sul testamento biologico organizzato dalla cellula Coscioni Pordenone dal titolo La legge sulle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, un diritto ancora da scoprire cos'è, come funziona, alle 18.30 alla Casa dello Studente. Nell'ambito delle letture d'arte per bambini organizzate nella Biblioteca d'Arte Molesi del Museo Revoltella di Trieste, in programma un appuntamento dedicato al pittore e scultore Marcel Duchamp, alle 17.00. Fa tappa alla tisana lo spettacolo Quell'anno di scuola, adattamento teatrale del romanzo Un anno di scuola di Gianni Stuparic, che racconta della gioventù triestina di inizio Novecento, alle 20.45. Parte da Gorizia il tour nelle sale cinematografiche del film Lala di Ludovica Fales, dopo la proiezione al Trieste Film Festival. Sarà presente la regista insieme alla ballerina e attivista rom Ivana Nikolic, interprete del film, al Kinemax alle 20.30. Al via stasera Aspettando Pordenone Docs Fest, il programma di anteprime del Festival del Documentario di Cinema Zero, che si terrà dal 10 al 14 aprile. 10 film che saranno proiettati ogni giovedì a partire da oggi con il documentario Smoke Sauna Sisterhood, che racconta il potere curativo della sauna, alle 20.45. Nel municipio di Tolmezzo si terrà un incontro informativo sul bando regionale per investimenti in macchinari e immobili e sul bando PNRR rivolto in particolare alle aziende agricole, alle 14.30. Abbiamo tempo ancora per un appuntamento. Nell'ambito della Settimana della Memoria al Teatro Miela di Trieste si terrà il convegno multidisciplinare Convivere con Auschwitz tra guerra e pace, organizzato dall'Università di Trieste e dall'Associazione Culturale Stazione Rogers. Il convegno inizierà alle 15 e continuerà per tutto il pomeriggio con gli interventi di docenti e testimoni della Shoah. Alle 12.54 si chiude questa edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Livia Liberatore e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Coloni e Tommaso Vinoni. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.